Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e bentrovati ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Riprendiamo una settimana di, come dire, cura e gestione, un po' un'occhiata come stanno andando le nostre finanze, non troppo bene da qualche tempo a questa parte. Comunque, venerdì c'è stato il via libera del Consiglio dei Ministri alle misure per il rilancio del settore auto e dei consumi in generale, un pacchetto che vale circa 2 miliardi di euro in prevalenza. L'intervento riguarda il settore auto, l'industria automobilistica, a cominciare dal bonus da 1.500 euro per la rottamazione di auto vecchie e l'acquisto di nuovi veicoli Euro 4 e Euro 5. Poi ci sarà un bonus da 2.500 euro per l'acquisto di veicoli commerciali leggeri, un bonus di 1.500 euro per auto a metano e idrogeno, 500 euro infine per la rottamazione di motorini e motocicli, e insomma una serie di interventi piuttosto interessanti che interesseranno chi è in procinto di acquistare un'auto nuova. Non sono ancora ben chiare le modalità di intervento. Stamattina cercheremo di capirle dalle mail che hanno già cominciato ad arrivarci. Ci sono molti ascoltatori che hanno già prenotato una vettura nuova nelle scorse settimane e adesso si chiedono se potranno beneficiare dell'incentivo. In tutto questo ci sono poi anche gli incentivi fiscali per l'acquisto di elettrodomestici, di arredamento, un tema importante questo in un momento in cui continuiamo a parlare della situazione particolare che vive l'ambito del credito al consumo, quindi i prestiti, le rate, le famiglie che ovviamente cercano anche di ammodernare la propria abitazione facendo ricorso a questi strumenti, e insomma tutto questo come potrà aiutare i consumi in questo momento, ma soprattutto quali saranno le modalità con cui sarà possibile accedere a questi incentivi. Con chi ne parliamo questa mattina? Intanto con Emilio De Leidi, caporedattore Mercato e Inchieste di Quattro Ruote. Emilio, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. E con il professor Umberto Filotto, segretario generale di Assofin. Buongiorno. Bentornato a Salva Danaio. 800 24 00 24 è il vostro numero verde per intervenire, per porci le vostre domande. Tra l'altro, parlando, avevo avuto l'impressione di sbagliare bonus, quello che riguarda le auto ecologiche, metano e idrogeno. Emilio, ho detto tutto correttamente, invece ho sbagliato un bonus. La cosa è abbastanza articolata e complicata, quindi forse vale la pena ricapitolare un attimo. C'è una differenziazione basata sulle emissioni di CO2, cioè di anidride carbonica, che si calcola in grammi chilometro. Quindi per metano, elettriche e idrogeno, che sarebbe bello anche sapere quali, perché non esistono e non esisteranno ancora un po', però il governo ha deciso che possono essere comunque sostenute, fino a 120 grammi chilometro il bonus è di 1.500 euro. Ai valori inferiori a 120 grammi al chilometro è di 3.500. E infatti, siccome mi ricordavo di questo 3.500, avevo avuto subito la percezione di aver sbagliato bonus. Ti chiedo di fermarti, perché adesso noi riepilogheremo tutto il pacchetto degli interventi nella nostra scheda introduttiva. Devo anche raccontare per un attimo, ma molto rapidamente, perché vedo già molti ascoltatori pronti ad intervenire quest'oggi, come sta andando la borsa, che è negativa, ma abbiamo avuto una settimana di recupero per i listini internazionali in attesa ancora del piano di sostegno americano che prima o poi il congresso statunitense si deciderà a varare. Parigi sta scendendo dello 0,4% questa mattina, quindi la settimana è partita con delle prese di beneficio sui mercati. Francoforte meno 0,36%, Londra meno 0,7%, Milano sta perdendo lo 0,11%. I titoli in luce stamattina: Unicredit più 4, Geox più 2,57, Fastweb più 1,79, Popolare di Milano più 1,42, Fiat in rialzo di un punto. Segno meno invece per Seat, pagine gialle, meno 5,66%, a quanto pare stanno per arrivare le dimissioni dell'amministratore delegato. Mediaset meno 2,63, Autogrill meno 2,21, Mondadori meno 1,87%. Questi casi del giorno, però noi andiamo subito al tema di questa mattina e dunque sentiamo che cosa ha deciso venerdì scorso il Consiglio dei Ministri. Dopo tutti i paesi europei, anche l'Italia ha varato un pacchetto di aiuti per sostenere l'industria dell'auto e rilanciare i consumi. Via libera dunque ad una serie di bonus che riguardano anche le due ruote e i veicoli commerciali, ma anche mobili ed elettrodomestici. Per auto e moto, come previsto, si procederà rinnovando, con piccole modifiche, la campagna di rottamazione scaduta il 31 dicembre 2008. In particolare, arriva un bonus di 1.500 euro per l'acquisto di un'auto Euro 4 o 5, immatricolata fino a dicembre 1999. Se la vecchia automobile verrà sostituita con una nuova benzina o diesel con cilindrata inferiore a 1300 cm cubici, il contributo aumenterà di 500 euro, quindi il bonus arriverà fino a 2000 euro. E ancora, se si sceglierà di acquistare auto nuove elettriche a gas o a idrogeno, l'incentivo aumenta ancora di altri 1500 euro, escluso invece il bollo gratuito per 3 anni. Per le due ruote è previsto infine un bonus da 500 euro per la rottamazione di motorini e motocicli Euro 0 e Euro 1 in cambio di una nuova due ruote Euro 3 fino a 400 cm cubici di cilindrata. Accanto agli incentivi a sostegno del settore dell'auto nel pacchetto sono contenute anche misure per rilanciare gli acquisti e la produzione di elettrodomestici. Detrazioni del 20% fino a un massimo di 10.000 euro sono state disposte infatti per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica, come frigoriferi, cucine e lavatrici. Nessuna misura in vista per il momento per quanto riguarda il sostegno degli acquisti a rate, un settore che sta scontando pesantemente gli effetti della crisi in atto. E ad accusare il colpo più duro sono stati proprio i prestiti finalizzati, vale a dire quelli destinati all'acquisto dei beni durevoli. Il telefonino, la lavatrice, il divano o appunto l'autovettura nuova. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Prima di tutto, prima di entrare nel merito di singolo bonus, singola auto da rottamare o da acquistare, Emilio De Lei di Quattro Ruote. La rosa dei bonus è un po' più ampia di quella di cui si parlava nei giorni precedenti al varo del pacchetto da parte del governo, cioè i bonus mi sembra che siano leggermente un po' più generosi rispetto a quelli che si ventilavano. Sì, sono più generosi anche perché è sparita l'ipotesi dell'esenzione del bollo triennale che avrebbe probabilmente messo in difficoltà le regioni, perché ricordiamo che la tassa di possesso finisce nelle casse delle regioni, quindi non dello Stato. Si è alzata anche la cifra, che voglio ricordare, per le trasformazioni cosiddette aftermarket degli impianti a GPL e metano sulle auto circolanti. Quindi qualcuno potrebbe decidere di non rottamare, perché su questo non ci sono dei vincoli di anzianità del veicolo, e di fruire di 500 euro per il GPL e 600 euro per il metano, che è il contributo che viene dato a certe condizioni per montare questo tipo di impianto di alimentazione sull'auto esistente. Stiamo parlando di un parco circolante che qualcuno ha stimato in 15 milioni di veicoli, in realtà probabilmente un po' meno, noi pensiamo che possa essere sui 13 milioni e 6 di auto Euro 0, Euro 1, Euro 2 fino al 99 che potrebbero essere interessati. Quindi a questi provvedimenti. Quindi questo è il parco auto teoricamente interessato appunto a questo ricambio. Chiamiamolo così. Professor Umberto Filotto, segretario generale di Assofin, non è stato varato, come dicevamo nella nostra scheda, un pacchetto per il credito al consumo, come hanno fatto invece altri paesi, come per esempio la Spagna. C'è però un sostegno indiretto a questo settore in questo momento, visto che chiaramente l'intervento riguarda beni durevoli, quindi l'arredamento, gli elettrodomestici, abbiamo detto, le auto, ovviamente la gran parte dell'intervento riguarda proprio il settore automobilistico. Qual è la vostra posizione, come avete valutato quello che è stato deciso fino a questo momento, come potrà aiutare anche il settore, un settore che tra l'altro viene ancora visto in maniera molto critica da parte dell'Associazione dei Consumatori, che anche in questo momento accusano, continuiamo ad invogliare le famiglie italiane ad indebitarsi. Il settore certamente può essere visto da prospettive diverse. Quello che è abbastanza sicuro è che il contributo del credito ai consumi e dunque anche all'acquisto di vetture è un contributo importante, perché tra 7 e 8 auto ogni 10 sono acquistate a rate. In questa prospettiva lanciare o delle iniziative che avessero la capacità di sostenere il credito, naturalmente con benefici a favore dei consumatori, poteva dare un ulteriore impulso a questo tentativo di rilancio. Quello che è stato fatto riguarda una parte, che è quella dell'estensione di alcune garanzie con una modalità, almeno per quel che sappiamo oggi, assolutamente quadro, poi si tratterà di capire come verrà realizzato questa estensione di garanzie. Che cosa si dice fino a questo momento? Come potrebbe essere effettuato questo meccanismo? Ma il meccanismo prevederebbe l'intervento della SACE per garantire i finanziamenti destinati ad acquistare i veicoli che sono, che godono degli incentivi. Nulla nulla di più viene detto, e chiaramente qui si tratterà poi di capire come viene dettagliata questa misura. Le modalità operative. Tra l'altro nulla viene detto, non sappiamo ancora effettivamente quando partiranno gli incentivi e soprattutto se varrà il contratto stipulato con il concessionario piuttosto che l'immatricolazione. Emilio. Sì, sicuramente gli incentivi partiranno, dovrebbero partire dal momento in cui il decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, poi come sappiamo, trattandosi di decreto, ha 60 giorni di tempo per essere convertito. C'è un rischio di essere emendato ripetutamente. Esatto, se è sempre verificato in passato. Ricordiamo che la politica di incentivi è già stata attuata dal primo governo Prodi, cioè dal 1997, e da allora ci sono state modalità diverse. C'era un obbligo, che era abbastanza intelligente all'epoca, di raddoppiare gli incentivi da parte del concessionario, quindi come dire 1500 euro ce li metto io e 1500 ce li metti tu concessionario o casa automobilistica, all'epoca si parlava di milioni naturalmente di lire, e le modalità effettive naturalmente non avrà un effetto retroattivo, questo è scontato. Bisognerà capire se farà fede alla data dell'ordine o della data dell'immatricolazione, per cui per esempio per quelle vetture ordinate all'inizio di gennaio ma che saranno immatricolate per esempio settimana prossima, questo non riusciamo ancora a sapere se potranno godere dei benefici o meno. È difficile, e questo ha spiegato, spiega anche il crollo degli ordinativi, cioè degli ordini, dei contratti fatti a gennaio, quando con l'effetto annuncio tutti aspettavano di avere questi benefici degli incentivi, ma non si sapeva quando sarebbero entrati in vigore. E adesso però sarebbe un vero peccato che effettivamente magari quelle famiglie che hanno deciso comunque di avventurarsi nell'operazione, che è piuttosto impegnativa dal punto di vista finanziario, dell'acquisto dell'auto in queste prime settimane di gennaio, perché tanto avevano dato per perso l'incentivo fiscale, adesso invece se lo vedono rientrare dalla finestra, insomma magari si potrebbe studiare anche un meccanismo per renderlo retroattivo, non lo so, facciamo partire magari questo suggerimento, non so se il governo ci ascolta, chissà magari questo messaggio gli arriva anche. Comunque cominciamo anche a sentire i nostri ascoltatori che magari sono proprio in procinto di fare questa scelta. Enzo dalla provincia di Milano, 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Enzo, buongiorno. Buongiorno a tutti voi e grazie per l'opportunità. Io volevo un attimino un piccolo chiarimento con riferimento all'articolo che è stato pubblicato sul Sole 24 Ore proprio sabato in relazione a questa faccenda dei bonus, dove si, diciamo così, dopo aver specificato bene tutti i bonus per quanto riguarda le macchine ecologiche, fa una piccola menzione sulle vetture alimentate a GPL, sì, dove dice che il bonus è di 1500 euro se le emissioni superano i 120 grammi e di 2000 euro al di sotto di questa soglia. Però sia nella bozza del decreto sia in quanto, diciamo così, dichiarato poi, per caso l'ho sentito su Rai 3 al sabato pomeriggio dal ministro Scajola, del GPL, degli impianti GPL, in questa sede non ne fa menzione. Quindi io volevo capire un attimino a che cosa mi posso rifare su questi due, su queste due tipologie di bonus per l'impianto GPL. Lei la deve comprare nuova Enzo? Nuova, esatto. Allora, Emilio, questa allora, ovviamente è una palla infuocata che ti giro immediatamente, perché... No, io sono assolutamente convinto che il GPL ci sia, adesso aspettiamo il testo definitivo del decreto come sarà pubblicato, c'è però, già sono state, anche perché ci sono state delle prese di posizione molto dure da parte delle associazioni di categoria per la discriminazione del GPL nei confronti del metano, perché ricordiamo che metano invece ha un incentivo di 3.500. Qualcuno ha detto subito è un favore alla Fiat, non è perché la Fiat ha sempre fatto metano. Non è vero, perché ha appena lanciato la gamma GPL, sono uscite da un mese o poco più e sono in campagna pubblicitaria Panda, grande punto, e bravo anche a GPL. Quindi su questo io direi che è questione proprio di ore, aspettiamo esattamente il testo del decreto, ma sono convinto che sia anche il GPL a fruire di questi incentivi. Enzo, se non deve proprio comprarla domani mattina, se ha tempo di aspettare almeno un paio di settimane, potremmo definire un po' meglio anche qual è l'ambito di intervento. Alessandro da Bologna invece ci permette di ritornare anche sull'altro settore che vogliamo affrontare questa mattina, quindi l'acquisto di elettrodomestici e arredamento nuovo. Lei vorrebbe fare questo investimento quest'anno? Sì. Anch'io, vorrei... Sam. Pronto? Sì, Alessandro. Sì, no. Buongiorno. Io vorrei cambiare, infatti, quest'anno sia i mobili della cucina che il frigo e portarli in classe A per via dei costi energetici, dei ridotti costi energetici, oltre che la piastra e il forno. Volevo sapere quali sono e di che entità sono gli incentivi che sono in programma da questo governo. Sì, Alessandro, tra l'altro questa è una rosa molto più semplice rispetto invece a tutta l'ampia panoramica prevista per quello che riguarda il settore auto. Tra l'altro, professor Filotto, lei prima ci diceva 7 auto su 10 sono acquistate a rate, invece per quello che riguarda per esempio l'arredamento, sì, lo so che magari non abbiamo disponibili dati precisi, però è, come dire, un settore vivace, molti magari giovani coppie che acquistano casa, quindi già sono molto impegnate dal punto di vista economico con questo investimento, magari arredano la casa scegliendo di farlo a rate oppure... No, no, sicuramente anche per quanto riguarda arredamento, elettrodomestici, vi è un contributo importante del credito con percentuali di penetrazione calcolate da noi inferiori rispetto a quello dell'auto. Queste due spiegazioni: una, in effetti il ricorso al credito in questi comparti è minore di quello che si ha nell'auto. L'altro motivo è che, per esempio, pensiamo agli elettrodomestici, parte di questi acquisti sono finanziati con forme di credito che non sono direttamente riconducibili al bene. Mi spiego. Se per l'auto si tratta normalmente di finanziamenti specificamente, diciamo, legati e erogati presso il punto di vendita, quindi il classico finanziamento finalizzato, quando si parla per esempio di elettrodomestici vi è l'uso per esempio di carta revolving oppure l'utilizzo crescente dei prestiti personali per acquistare questi stessi beni, allora non riusciamo a determinare qual è il contributo, però certamente è molto significativo. Non forse è molto chiara ad Alessandro da Bologna, al quale adesso spieghiamo quant'è la detrazione di cui può godere se rinnova il suo arredamento, il suo parco elettrodomestici, forse non è molto chiara, non ascoltatori, il fatto che comunque questa detrazione è vincolata ad un lavoro di ristrutturazione della propria abitazione, professor Filotto. Su questo, come dire, il pacchetto un po' più chiaro rispetto alle auto, mi sembra che sia molto chiaro. Direi di sì, direi che è una condizione necessaria per poter godere di questa agevolazione. Allora, ribadiamo ad Alessandro quali sono i termini appunto della detrazione che può ottenere, qualora però contestualmente l'acquisto di mobili ed elettrodomestici deve fare anche la ristrutturazione della propria abitazione, cioè tutti quei lavori agevolati appunto al 36% di cui abbiamo parlato almeno qualche migliaio di volte a Salvadanaio. La detrazione del 20% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici va calcolato sul prezzo d'acquisto IVA compresa fino a 10.000 euro, la detrazione massima è di 2.000 euro e la prima rata sarà sottratta nella dichiarazione dei redditi 2010. Luca da Genova. Salve, un saluto a tutti. Il mio quesito in realtà credo che in parte è già stato risposto prima e fa riferimento a quello del radioascoltatore Enzo di Bologna. Nella fattispecie io volevo sapere se si può quantificare con... diciamo ragionevole certezza quanto è il contributo nel caso di un acquisto di auto a GPL sopra le emissioni minime di 120 grammi di anidride carbonica per chilometro con la rottamazione del vecchio, cioè se si parla di 3.000 euro o più di 3.000 euro. Grazie. Emilio, allora, per auto superiori a 120 grammi chilometro il contributo è di 1.500 euro per la rottamazione, più altri 1.500 euro di incentivo per il GPL e sono 3.000. Dopodiché questo non vuol dire, e questo vale per tutti e vale la pena ricordarlo, che non ci sia lo sconto del concessionario, perché già molti hanno avuto, sollevato questa preoccupazione di dire ma adesso col fatto degli incentivi le case si rimangiano gli sconti, quindi no, la base è 3.000 euro. Se fosse kamikaze in questo momento. Ecco, allora forse è successo in passato in momenti di mercato diverso, però con una situazione attuale io penso che sarà il mercato stesso a far sì che la scarsità di domanda stessa farà sì che comunque le campagne di sconti continuino. Qualcuno l'ha già detto, per esempio la Ford ha già annunciato che i propri ecoincentivi che aveva varato spontaneamente dall'inizio dell'anno in sostituzione di quelli statali continuano, quindi significa 3.000 più X, che è lo sconto praticato dal concessionario, preferibilmente sulle vetture in pronta consegna, perché sono questi gli stock che i concessionari tendono a smaltire in questo momento di difficoltà. Parlando delle tendenze del credito al consumo, professor Filotto, abbiamo spiegato più volte anche da questi stessi microfoni di come in un anno che ha visto una trasformazione della faccia di questo settore nel nostro paese, con la diminuzione forte dei prestiti finalizzati e l'aumento dei personali, si è un po' interpretato come questo fenomeno, come un fenomeno che così un po' individuava proprio la necessità per le famiglie italiane di avere maggior liquidità in casa e magari chiedere il prestito non tanto per fare un acquisto impegnativo quanto proprio per arrivare alla quarta settimana del mese. Vedo credo che invece da molte vostre considerazioni non interpretate esattamente così questo fenomeno. Si può fare il prestito personale magari proprio per acquistare la macchina. Ma le ragioni per le quali noi diamo di questo fenomeno un'interpretazione diversa risiedono nel fatto che il credito al consumo ha nei diversi mercati un ciclo di vita ed è del tutto normale vedere che mercati, diciamo, relativamente giovani come è stata l'Italia hanno un maggior peso del credito finalizzato rispetto alle forme di credito diretto. Una volta che diciamo si è diffuso l'utilizzo dello strumento, il consumatore che magari ha avuto accesso la prima volta a un finanziamento attraverso il credito finalizzato, preferisce spesso usare il credito diciamo diretto, quindi prestito personale, perché lo gestisce diciamo con maggior autonomia e libertà, e questo è il motivo per cui anche in Italia si sta diciamo ribaltando questa proporzione, che è comunque un dato che caratterizza tutti i paesi diciamo in cui l'uso dello strumento è particolarmente diffuso. Cercheremo poi di capire se continuerà ad enfatizzarsi magari questo fenomeno in quest'anno, che insomma è definito ormai preventiva, lo abbiamo messo ormai a preventivo come un anno di crisi pesante per un po' per tutti i settori. Eccoci ritrovati in diretta, questa mattina stiamo analizzando, almeno secondo quello che ci è dato sapere fino a questo momento, il secondo pacchetto anticrisi che è stato varato dal governo venerdì scorso. Contiene misure di incentivi fiscali per l'acquisto di auto e la rottamazione delle vecchie automobili, e poi incentivi fiscali anche per rinnovare l'arredamento della propria casa o il parco elettrodomestici della propria abitazione. Ovviamente intervento fiscale, questo lo precisiamo ancora perché forse non è molto chiaro ad alcuni ascoltatori, che è un intervento di detrazioni fiscali legato a lavori di ristrutturazione della propria abitazione. Magari più avanti, quando conosceremo meglio le modalità dell'intervento che riguarda questo ambito, ci rifaremo sicuramente un'altra puntata, come sarà necessario rifarla anche per l'auto. Intanto stamattina ragioniamo con quello che abbiamo, con Emilio De Leidi, caporedattore Mercato Inchieste di Quattro Ruote, con il professor Umberto Filotto, segretario generale di Assofin, per tutto l'ambito che riguarda i prestiti e le rate. 800 24 00 24 è il numero verde a cui potete continuare a prenotare i vostri interventi per interagire con noi questa mattina. Volevo sentire Agostino da Torino, che ci chiede forse di fare un attimo un punto della situazione per capire meglio gli incentivi legati all'auto, no? Agostino. Sì, pronto, sono in diretta. Sì. Pronto. Scusate la dialettica da non italiano. Perché? Non sono italiano. Di dov'è Agostino? Sono rumeno. Ah, ci dica tutto. Allora, volevo chiedere questo, se qualcuno dovesse sostituire una macchina tipo del 2004, perché magari a tanti chilometri, magari non funziona bene, per tanti motivi, rientra in qualche fascia di incentivo? Così, sì, rottamazione di un'auto acquistata nel 2004, Emilio De Leidi, sì. No, gli incentivi sono vincolati a due parametri. Uno è la direttiva di omologazione delle emissioni nocive, quindi fino alla Euro 2. Non solo, è un'auto del 2004, come minimo Euro 3 se non Euro 4. Non solo. Diciamo che lui non ha nessun incentivo rottamando questa, naturalmente. Può trovarne altri di un altro tipo, poi magari lo aiutiamo. Prima cosa. Seconda cosa, anche le Euro 2 sono vincolate, non tutte, ma a una data precisa, che è immatricolate entro il 1999, quindi devono avere almeno 10 anni in sostanza. Per cui in un caso di questo genere l'unico incentivo può essere lo sconto che fa il concessionario. Sconto che può essere maggiore se magari non gli viene data dentro, come si suol dire, cioè non viene permutata un'auto del 2004 con tanti chilometri. Immagino che possa essere un diesel, che poi è difficile da ricollocare sul mercato. Agostino può sempre vendersela questa? Sì, magari spesso i mercati di destinazione di questo genere di vetture, cioè con tanti chilometri ma recenti, sono proprio quelli dei paesi dell'est. Quindi insomma, magari tra qualche amico adesso, a parte non vorremmo fare della... Però spesso facilmente vengono anche quelle ritirate a bassissimo prezzo dai concessionari, trovano degli sbocchi in quei paesi dell'est europea, dalla Lituania, paesi baltici eccetera, dove ci sono meno vincoli rispetto per esempio alle città italiane di obbligo di circolazione, cioè per esempio un diesel non col filtro antiparticolato qui diventa a Milano o piuttosto un'altra città più difficilmente commerciabile, perché rischi di dover pagare l'ecopass, rischi di essere bloccato, mentre nelle città italiane di piccole di provincia o all'estero trova ancora un mercato. Allora, tra l'altro c'era un ascoltatore che voleva chiedere chiarimenti a proposito della ristrutturazione contestuale da fare appunto per ottenere la detrazione fiscale sull'acquisto di mobili o elettrodomestici. Vedo che è sparito, però professor Filotto di Assofin, si acquista l'auto molto spesso, l'abbiamo detto prima, proprio tipicamente con la forma del prestito finalizzato, rivolgendosi direttamente al concessionario, no, che intermedia questo tipo di prestito. Così, un suo giudizio, è più conveniente secondo lei ricorrere al concessionario oppure fare il prestito personale e comprare l'auto? Qual è meno onerosa come forma per il consumatore? Dipende dai momenti. Ci sono momenti in cui le offerte fatte presso la concessionaria sono offerte molto convenienti, molto interessanti, e ci sono invece momenti in cui sono abbastanza costose, e in questo caso può convenire ricorrere al finanziamento personale, che è un po' il discorso che facevamo anche prima. Sì. È sempre diciamo la stessa questione: il consumatore fa bene a confrontare diverse offerte, scegliere quella che gli o le conviene di più. Banale da dirsi, ma non sempre viene fatto, e quindi è un consiglio da ripetere più volte possibile. Ecco, tra l'altro molto spesso abbiamo anche la sensazione, l'ho notato anche quando abbiamo fatto trasmissioni di questo tipo, che se si compra un'auto da concessionario e si ha bisogno di fare questo acquisto a rate, si ha la convinzione che si debba esclusivamente utilizzare il finanziamento che ci fa il concessionario, ma non è in realtà un vincolo, un obbligo. Mi risulta, no, professor Filotto. Non è assolutamente un vincolo, non è assolutamente un obbligo. Poi, anche ove si stabilisse, perché è più comodo, perché uno non ha voglia di andare a preoccuparsi, di andare a chiedere prestito in banca, di farlo presso il concessionario, da tenere presente che i concessionari hanno spesso più di un'offerta di finanziamento, quindi non solo la prima che propongono, ma normalmente ne hanno anche altre. E quindi, di nuovo, così come si è dedicato un po' di tempo a scegliere l'auto e scegliere gli accessori, è ragionevole che si dedichi un po' di tempo a scegliere anche il finanziamento che serve per acquistarla. Questo vale, immagino, anche per gli elettrodomestici piuttosto che per l'arredamento, per i punti vendita. Sì, assolutamente sì, è sempre così. Allora, Gualtiero da Milano, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, io sto cercando appunto un'auto di piccola e media cilindrata con GPL su un 1.300. Ho chiesto eventuali formule di incentivo, però non mi è stato chiarito nulla. Volevo sapere come poter quantificare, oppure se esiste appunto della possibilità di quantificare. Gualtiero, lei ha un'auto da rottamare? Un'auto nuova. Valgono un po' le considerazioni che facevamo prima. Allora, se escludiamo l'auto da rottamare, che già comunque era un incentivo interessante, se legata a quell'aspetto, Emilio De Leidi, quattro ruote. Allora, gli incentivi di cui stiamo parlando sono legati alla rottamazione di un'auto, e questo è dovuto al fatto che si coglie l'occasione di questa rottamazione per cercare di svecchiare il parco circolante. Noi abbiamo detto prima che ci sono 13-14 milioni di auto. A tutto beneficio anche dell'ambiente, perché anche dell'ambiente, questo è sicuramente. Su un circolante di auto di 35-36 milioni, ne abbiamo 13-14 milioni ancora che rispondono alle direttive antinquinamento più vecchie, quindi non c'è un incentivo di questo genere legato alla rottamazione. C'è un incentivo, come abbiamo detto, alla trasformazione di auto esistenti con l'adozione di impianti metano GPL, e questo di qualsiasi direttiva antinquinamento rispondano, per cui ci sono questi 500-600 euro a seconda che sia GPL metano per montare, corrispondono a circa il 50% del costo dell'intervento, dell'operazione. Emilio De Leidi, noi l'avevamo interpellato, ti avevamo interpellato anche la settimana scorsa, perché Quattro Ruote aveva pubblicato questa inchiesta su come i concessionari, indipendentemente dagli incentivi, che tra l'altro non era ancora chiaro se arrivassero o meno, stessero affrontando la crisi. A un certo punto avevamo fatto anche una battuta, forse di cattivo gusto: strozziamo un po' i concessionari in questo momento, perché sicuramente trattando un po' riusciamo ad ottenere una buona occasione, un'auto magari molto ben accessoriata al prezzo della vettura base. Sì, è così, noi avevamo fatto questa inchiesta, diciamo, a gennaio, prime settimane di gennaio, e era venuto fuori che si potevano ottenere sconti considerevoli, anche nell'ordine del 20%, sulle vetture in pronta consegna, cioè quelle negli stock dei concessionari. Adesso bisognerà capire come questo tipo di iniziativa, degli incentivi, possa andare a modificare la politica delle case. Non nel caso, come quello dell'ultimo ascoltatore, di un acquisto senza rottamazione o senza ritiro di un usato, ma bisognerà appunto capire quanto le case vorranno forzare questo tipo di contributo. Il mercato è così negativo, quanti margini hanno per poterlo fare, è così negativo che probabilmente noi riteniamo che le campagne potranno andare avanti. Devo dire, aggiungendo quello che diceva il professore prima, che molte di queste campagne propongono anche non solo degli sconti ma anche dei finanziamenti al cosiddetto tasso zero. Poi di fatto è uno zero, c'è un qualche cosa quando si va a vedere il tag relativo comunque alle spese di finanziamento, istruzione pratica, tutte queste cose. È molto importante che si guardino realmente le condizioni, ma questo il professore potrà spiegarlo meglio di me, di questi finanziamenti, che non abbiano qualche clausola che possa mettere nel lungo periodo, perché stiamo parlando di finanziamenti anche di 60 mesi, quindi nel lunghissimo periodo, questo genere di cose. Però nel gioco della trattativa non conta solo l'incentivo, lo sconto, ma anche eventualmente la possibilità di avere un'auto nuova senza anticipo e spendendo quei 100, 150, 200 euro al mese che tutto sommato possono essere affrontati. Ci dicono però che c'è nella generale stretta al credito al consumo, e anche in questo caso forse il professore può aiutarsi a capire queste cose, che aumenta la quantità di finanziamenti rifiutati alle persone. Cioè, qualcuno diceva in associazione degli importatori, addirittura un 40% delle domande che prima potevano essere accolte vengono rinviate. Al mittente, ecco, questo è un aspetto un po' delicato. I criteri sono più selettivi. Eccoci ritrovati a Salva Danaio, i provvedimenti del governo per il sostegno al settore auto, ma non solo, ai beni durevoli, il nostro paese, il rilancio dei consumi, cosa è stato stabilito venerdì scorso. Oggi stiamo commentando quello che sappiamo fino a questo momento, ma ovviamente con i provvedimenti attuativi ne sapremo qualcosa di più nei prossimi giorni. Intanto il tema che stiamo affrontando appunto è tutta la gamma degli incentivi previsti per il settore automobilistico, ma anche la gamma un po' più contenuta degli incentivi fiscali legati all'acquisto di un nuovo arredamento per la casa o agli elettrodomestici. Carla da Padova credo volesse chiederci qualcosa proprio a questo proposito, vero? Sì, buongiorno, credo di aver già avuto la risposta. Sì. La mia domanda era, quando si tratta di acquisto di elettrodomestici, di arredamento ed una casa nuova, la classico esempio della coppia di sposi che sta mettendo su casa, cioè in questo caso qui non c'è nessun tipo di agevolazione o di scontistica, se ho ben capito. E infatti ha capito proprio bene Carla, okay, perché in pratica è legato tutto alla ristrutturazione. Però noi ovviamente, siccome poi questo è un pacchetto di incentivi che anche dal punto di vista del tempo è limitato, perché credo che ci sia tempo per chiedere le agevolazioni fiscali nel settore dei mobili e degli elettrodomestici fino a settembre 2009, cercheremo di fare più puntate proprio per farvi capire nel dettaglio come potervi avvalere appunto di questo incentivo, che è sicuramente molto importante. Insomma, il 20% su una spesa massima di 10.000 euro, quindi 2.000 euro, perché li dobbiamo regalare, non dobbiamo beneficiare. Graziano da Ancona. Ah, buongiorno. Senta, io volevo chiedere se era possibile rottamare due macchine per una nuova, perché nel vecchio decreto c'era che rottamando una macchina era 800 euro. Sì. Rottamandone due 1.500. Adesso questa possibilità è rimasta? Graziano, sentiamo un po' allora il 2 per 1 qua, lo sconto anche proprio estremizzato al massimo, Emilio De Leidi. Ma anche in questo caso credo che si debba aspettare il testo definitivo del decreto, però temo di no, cioè al temo che sì, sarà a fronte una rottamazione di un veicolo a fronte dell'acquisto di un altro veicolo nuovo. Quindi l'incentivo verrà erogato per l'unico veicolo, viene scontato dal concessionario per l'unico veicolo acquistato. Ovviamente se ne rottamano due e se ne acquistano due, l'incentivo sarà raddoppiato. Però anche a spese. Infatti, esatto, direi. Volevo girare al professor Umberto Filotto invece le considerazioni che così hai lanciato tu prima a proposito del prestito finalizzato all'acquisto dell'auto. C'è una stretta del credito che è abbastanza evidente, riguarda in maniera molto preoccupante tutte le imprese, riguarda ovviamente anche molto i consumatori che prima per esempio potevano essere un po' più accontentati se andavano non tanto a chiedere il mutuo. Fino a qualche anno fa c'era la possibilità per esempio di chiedere un mutuo molto alto rispetto al valore dell'immobile, quasi al 100%, adesso le banche credo che oltre il 70% non vadano più e stanno respingendo anche molte pratiche di richieste di finanziamento anche per importi molto più contenuti, professor Filotto. Tutto questo che impatto sta avendo proprio nell'auto, come dicevamo prima con Emilio De Leidi? Allora, innanzitutto è da sottolineare come il fatto che le banche e gli operatori finanziari in Italia siano stati abbastanza prudenti in passato, lo siano oggi, è da considerarsi un fattore positivo. Una delle cause, comunque il detonatore di questa crisi, sta nell'eccessiva disinvoltura con cui negli Stati Uniti è stato fatto credito. Detto questo, è chiaro che lo scenario che abbiamo di fronte perlomeno il prossimo anno è uno scenario difficile e quindi con rischi di credito più elevati, e questo induce ad essere ancora più prudenti. Devo però dire che nello specifico di questo settore i dati che noi abbiamo segnano una non particolare flessione dell'offerta di credito. Saranno magari più le società finanziarie di marca che sono più, come dire, attive rispetto ad altri operatori, e quindi l'effetto netto risulta un effetto, diciamo, c'è una compensazione. A questo punto potrebbero intervenire ulteriori incentivi a favorire, diciamo, l'utilizzo di credito. In parte quello approvato è un intervento sulle garanzie, in gran parte da scrivere, cioè per quel poco che si può capire è una sorta di ombrello, ma quello che c'è sotto dobbiamo riuscire a capirlo. E se si costruissero misure puntuali e semplici nell'attivazione di queste garanzie, potrebbe dare un aiuto al mercato. Un'altra ipotesi, che però non è stata presa in considerazione in questo provvedimento, è quello di introdurre qualche elemento di detraibilità o deducibilità degli interessi, e questo renderebbe il finanziamento, diciamo, più conveniente per il consumatore, quindi potrebbe, come dire, dare un ulteriore impulso agli acquisti. Infatti, si ha l'impressione in questo periodo che il governo abbia esplorato tutta la gamma possibile di detrazione che può concedere in una fase come questa. Il meccanismo del credito d'imposta non può essere usato come bancomat, aveva detto Tremonti, purtroppo invece pare che ogni sostegno debba passare necessariamente attraverso questa via. Allora, altri ascoltatori in lizza, tra l'altro, magari visto che stavamo parlando del fatto che molto spesso anche al concessionario al quale ci rivolgiamo per l'acquisto della nostra auto e al quale ci rivolgiamo anche per l'intermediazione del finanziamento, prima di andarci e chiedere il finanziamento che poi ci viene respinto, magari facciamo anche un piccolo check-up della nostra situazione. Professor Filotto, so che voi di Assofin andiate molto fieri del vostro strumento per monitorare la propria situazione personale, che è monitorare. Esatto, www.monitorata.it. Sì, andiamo fieri perché riteniamo che sia uno strumento utile per il consumatore, completamente gratuito, completamente anonimo, quindi senza nessuna finalità commerciale. Verificare la propria capacità di sostenere la rata e di acquisire un finanziamento è credo una buona cosa, molto opportuna, specie in questo momento. E prima di subire, insomma, anche l'umiliazione del no, che spesso non è proprio una bella circostanza nella quale trovarsi. Aniello da Salerno, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Volevo chiedere se acquistando una macchina, diciamo a benzina oppure diesel, e mettendoci un impianto a metano, che tipo di sconto si può avere? Allora, sul Emilio diesel il metano non si può mettere, questa è una questione prettamente tecnica. Aniello, che operazione voleva fare lei sulla sua auto? Mi scusi, tra l'altro questo particolare mi è sfuggito, ma no, non sarei stata nemmeno capace di fare un commento come il tuo. No, sul benzina abbiamo in caso di rottamazione i 1500 euro più col metano, se siamo sotto i 120 grammi al chilometro, altri 1500, se siamo, sopra i 1500 e sotto i 3500. Quindi il totale, nella migliore ipotesi, a fronte di rottamazione fa 5000, che non è poco. No, se pensiamo infatti a una Panda a metano, tanto per fare un esempio, di vettura di segmento inferiore, che può costare sui 12.000 euro, 13.000 euro, ne togliamo 5.000, ci troviamo una macchina nuova intorno ai 7.000 euro. Ci sono due piccole cose che volevo aggiungere rapidamente. Uno, che in alcune regioni ci sono poi degli incentivi regionali. Faccio il caso della regione Lombardia, per le auto a alimentazione, doppia alimentazione, appunto, GPL, metano, eccetera, legati però a delle fasce di reddito che sono state quest'anno però alzate, riviste e alzate. Credo che si possa arrivare a 48.000 euro di reddito familiare per una famiglia di 4 persone, che si cumulano a quelli nazionali. Quindi attenzione a non dimenticarsi anche del fatto che si può accedere a un, a un contributo regionale, sempre nella buona fede del concessionario che ci dice che abbiamo a disposizione tutti questi strumenti, insomma, per alleggerire questa spesa. Siamo sicuri che loro sappiano sempre quello che devono fare, Emilio? No, purtroppo, purtroppo è bene documentarsi prima, perché soprattutto in questi casi piuttosto complicati è necessario essere preparati nel momento in cui si va a far fare un preventivo. Un'ultima cosa rapidissima: stiamo parlando di concessionari, abbiamo parlato di restrizione del finanziamento, del credito. Ecco, se non ci può essere forse non un problema per il consumatore finale, ma per le reti di vendita, che sono in grossa sofferenza. E infatti vorrei anche attenzione, spezzare un po' la lancia, certamente a favore dei concessionari, ma attenzione al rischio fallimento, perché poi nel momento in cui si consegna una caparra, o peggio nel momento in cui si salda la vettura, che deve essere pagata prima dell'immatricolazione, si è esposti per il codice civile italiano al rischio del fallimento del concessionario, che in quel momento chiude e si finisce tra i creditori neanche privilegiati. Avete notato che questa cosa sta succedendo di frequente? Purtroppo qualche caso c'è stato, qualche caso anche recente di reti abbastanza importanti, e in questo qualche anno fa c'era stata qualche casa automobilistica che si prendeva carico di questa situazione per la fidelizzazione del rapporto col cliente, ma in questo momento in cui anche loro sono in difficoltà diventa più difficile. Ricordiamoci che il rapporto è tra chi compra la macchina e chi gliela vende, il concessionario, che è un libero imprenditore, è un imprenditore, andare a rivolgersi a Renault Italia piuttosto che Fiat, eccetera eccetera, se la casa è disponibile può venire incontro, ma di questi tempi può essere difficile. Come tutelarsi dal fallimento del concessionario? Questa è una domanda alla quale nessuno sa rispondere, perché bisognerebbe avere degli elementi per sapere se questa persona... Ci mancava pure che sagitassimo anche questo spettro, Emilio, però insomma, visto che dobbiamo fare attenzione per compiere un acquisto che comunque molto spesso ci impegna per anni, insomma è secondo forse solo a quello del mutuo, all'acquisto della macchina ovviamente, se parliamo di un'utilitaria no, ma se comunque ci dobbiamo avventurare magari perché abbiamo una famiglia numerosa con un acquisto di una vettura un po' più grande, è chiaro che anche lì è un impegno finanziario che in realtà qualche anno ce lo portiamo dietro. L'ultima domanda la facciamo fare, sono un po' indecisa, Patrizia da Vicenza, buongiorno. Buongiorno, sono Patrizia. Niente, ho comprato una Ford Fusion al 7 gennaio, ho dato una caparra e mi hanno fatto un incentivo su della Ford da rottamare una macchina, una Lancia Y del 97. Io ho fatto il contratto, però adesso ho visto anche la pubblicità degli incentivi statali, che oltre agli incentivi della Ford. Sono quelli di cui abbiamo parlato stamattina. Patrizia, devo salutarla perché fra 30 secondi devo chiudere. Allora lei dice: ho diritto anche a quello statale? Allora teoricamente no, Emilio De Levi. No, dovrebbe entrare in vigore dalla data di pubblicazione del decreto, che potrebbe essere oggi, quindi dalle auto ordinate oggi o domani. Quindi lei però l'ha già acquistata, non so se l'ha già immatricolata, a meno che il vincolo non sia la data di immatricolazione, allora qui si aprirebbe uno scenario diverso. Però aspetti il decreto ancora qualche ora. Patrizia, aspetti un po'. Io vi ringrazio molto per essere stati con noi, perché secondo me abbiamo fatto una puntata molto molto vivace questa mattina. Grazie ad Emilio De Ledi, grazie al professor Umberto Filotto, segretario generale di Assofin. Quando conosceremo ancora più cose su tutto questo provvedimento, magari li rimettiamo insieme e così insomma vi spiegheremo qualcosa ancora di più. Da Deborah Rosciani, buona giornata.